and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da K, E un saluto da Drago, Ciao, Caio. La scorsa settimana avevamo disegnato l'identikit del bambino sovrappeso, K, ti ricordi? Sì, mi ricordo. L'avevamo fatto in base, ma come no? Non mi ricordo. Tutte quelle notizie che vengono rilanciate sul web da un sito all'altro su questo argomento dell'obesità infantile, non ti ricordi? Non mica tanto. Ma eravamo arrivati a trovare dei capisaldi infallibili sulle cause che provocano l'obesità nei bambini. Beh, dai. Innanzitutto le tonsille. Bravo. No, vedi, se i bambini hanno le tonsille, allora dimagriscono. No, aspetta, com'è? No, i bambini obesi sono senza tonsille, no? No, era una cosa del genere. Vabbè, però adesso più o meno si è capito. Insomma, e poi c'è la vitamina D. Senza vitamina D, cioè senza pesci, si ingrassa. Va bene, ma poi c'era anche la carenza di sonno. Giusto, quindi, giusto. Chi dorme tanto dimagrisce. Giusto. Ma attenzione, chi fa poco sport ingrassa. Quindi come dormire facendo sport? Ecco, questa settimana sono arrivate altre notizie, altre due notizie. Una è che se sei un bambino umbro, hai circa il 38% di possibilità di essere obeso. Ma cosa stai dicendo? Insomma, se sei di Todi e ti svegli presto, eccetera, eccetera, i tuoi 100 kg non te li toglie nessuno. È tutto vero, è tutto documentato. Sì, se qualcuno, se qualcuno vuole le fonti anche dei nostri ascoltatori, basta che le chieda e io ce l'ho. Sì. E poi c'è... se qualcuno di Todi vuole intervenire, esatto, se vuole. E poi c'è la notizia che spazza via tutte le altre. Quindi, arriva niente meno che dalla Cornell University, quel covo di hippie sulla East Coast. E la notizia è che, secondo gli studiosi fricchettoni della Cornell, il bambino diventa obeso se sua madre lavora. Quindi sport o non sport, sonno o non sonno, tonsille o non tonsille, todi o non todi, se la madre lavora, il bambino ingrassa. Sai come sono gli hippie, no? Scappa travai che me arrive, dicono così. Gli hippie, ma gli hippie piemontesi. Scappa lavoro che arrivo io, cioè quando lui arriva lo lavoro deve capito. Scappare. Ma che relazione c'è tra il lavoro della mamma e il peso del bambino? Se la mamma lavora part time, il bambino ingrassa part time? E se la mamma ha un co-co-co, il bambino ingrassa meno che se la mamma è assunta a tempo indeterminato? A queste e ad altre domande risponderemo alla prossima puntata di Sei grassa, settimanale di assurdità universitarie di origine controllata. Sì, ma perché sei grassa e non sei grasso, scusa? Le donne soffrono di più, E ora, bambini, ricreazione! Ragazzi, sono in total sbatti, Total sbatti? Sì, perché mia madre ha letto degli articoli su quella mamma cinese che ha scritto un libro in America, no? Ah, sì, sì, mamma tigre. Tiger woman. No, magari. In realtà è una madre cinese che ha educato le sue figlie a essere sempre le prime in tutto, sì, con la regole di ferro, una severità quasi da codice penale, no? Sì, ma voi sapete come sono i miei genitori, no? Cioè, appena una cosa puzza di Cina, loro vanno fuori di testa, Questi non vedono l'ora che vengono i cinesi a colonizzare tutto il paese. Sì, vabbè, ma com'è bene la storia? La madre cinese? Sì, che... ne hanno parlato quasi tutti. Si chiama Amy Chua, insegna legge a Yale. Ed è madre di due ragazzine, le ha educate usando il sistema tradizionale cinese. Mai un amico, mai un'amica. Ecco. Sempre a studiare e fare esercizio. Sì. Suonare il piano, suonare il violino. Beh, nessun gioco di nessun tipo. E soprattutto nessun videogioco. Vabbè. C'è un incubo. Sì, però sono diventate ragazze mature, mica delle bamboccione come le americane. E questo è il sottotesto un po' del libro di Amy Chua. Quindi c'è tutto un dibattito. Ho capito, ma io cosa c'entro? Okay. Cioè, non sono cinese e nemmeno americano. No. Sono un bambino italiano e devo essere cresciuto nel modo italiano, no? E quale sarebbe questo modo italiano? Cioè, che mi danno sempre ragione, no? Che mi battono le mani appena disegno uno scarabocchio senza senso, che comando io, e che sono il tiranno della famiglia, Giusto, vabbè, giusto. Però è comodo crescere così, no? È comodo. Ma se sono italiano! Sì, sì, vabbè, un po' di metodo cinese, però forse ti farebbe bene. Ma cosa A parte dici, che Alberto... A me? Vabbè, sì. Ma se i miei sono comunisti? Appunto. Cioè, credete che loro mi tirano su nella bambagia? Forse è vero, non è, forse lui le esempio. Fino adesso hanno usato il metodo sovietico. Non è cinese, ma insomma. Ma adesso appunto sono presi dal metodo cinese. Io pure che sia molto peggio. Peggio di quello. Ma quindi studi violino? Sì, sì, questi da un giorno all'altro, dalla mattina al pomeriggio arrivo a casa e c'è un maestro di violino. E mi fa studiare 6 ore al giorno, eh. E se non imparo, mi insulta. Ma chi? Il maestro? Sì, maestro, ma anche mia madre. E poi la sera quando arriva il padre mi insulta anche lui. No, ma dai, ma povero bambino Alcatraz. Sì, Alcatraz in questo caso va proprio bene. E in più all'asilo deve essere il primo in tutte le materie. Vabbè, che materie ci sono all'asilo? Siamo sempre a questa cosa. Ma lo chiedete a me, non lo so. Non lo però sai. Io devo essere il più bravo in tutte. Ma se non, le, non sai quali sono, andiamo male. E se non è così, sono un perdente. Mi dicono così. Sì, vabbè, il terrore, questo è il terrore. Terrore, terrore, terrore, tremendo. Però dai, io non sarei così sicuro che Amichua fa poi così male a incitare i genitori a essere un po' più severi, dai. Perché comunque la severità serve se in cambio poi i ragazzi ricevono qualcosa. Se è severità fine a se stessa, chiaramente è dannosa. Ma se serve ai bambini a essere più tenaci e non arrendersi alla prima difficoltà, allora è, diciamo che è utile, no? Utile. Utile, sì. Sì, ma io non sono mica un adulto, eh. Sono gli adulti che devono essere forti. I bambini si devono divertire, eh. Solo divertire, però vabbè, anche quello, allora, però... Io faccio 6 ore di violino ed è subito ora di andare a letto. Certo. Se non c'è il film della morte. Se no, 6 ore di violino, film e a letto, senza cena. Sì. Ma vi sembra una vita da bambini normali? Qui alla fine è stato sempre la cena, che sia per il violino o per il film. E tra l'altro, quando c'è la cena, è solo fino a che cotto. Vabbè, ma se la metti così, vabbè, cerca di vedere il lato positivo di tutto questo. Ma quale sarebbe? Che i suoi genitori si sono resi conto di essere stati dei cattivi genitori e sono corsi ai ripari, no? Ma no, tu non hai capito! Erano pessimi i genitori. Ma adesso sono peggiorati. Pessimi, peggio di peggio. Allora, lo so che sembra impossibile. Eppure invece, ci mancava anche la mamma tigre cinese a mettere le idee strambe in quelle zucche vuote. Vabbè, sì, comunque dai, coraggio. Cinese, un po' di violino non, in fondo non ha mai fatto male a nessuno, no? Poi c'era anche quella famosa canzone di Domenico Modugno, no? Il maestro di violino. Vabbè, ma quello cosa c'entra? Ma niente, così per distrarlo un po', no? Allora è pronta, signorina? Come signorina? Corregga la posizione dell'archetto. Bene così. Signor maestro, non è che può cambiare lei la posizione del suo archetto? Ma che fatica a fare il governatore, capo. Il governante, semmai. Ma quale governante? Il governatore. Ma guarda che stirare, rifare i letti, pulire per terra, cioè fare il governante è molto più faticoso. Che fare il presidente della regione. Ma secondo me sì. Guarda che per fare il governatore leghista del Veneto bisogna avere... bisogna inventarsene una ogni giorno per dimostrare che non si è diventati uguali a tutti gli altri politici di Roma Ladrona, Prendi Zaia. Lui è stato pure ministro, quindi i sospetti sulla sua autentica adesione agli ideali della legge sono più che legittimi, quindi è alla continua ricerca di pretesti per dire qualcosa di leghista. Ma vada via i chap, va. Cos'è questo? Ho detto qualcosa di leghista. Vabbè, ma Zaia è più prolisso di così e soprattutto si occupa quotidianamente dei temi scottanti della sua regione. Tipo l'alluvione nel Vicentino, questo no, ma cose più scottanti, dai. La secessione del Bellunese verso il Trentino. Di più. Venezia che affonda e non si decide mai come salvarla. Ancora più scottante, cappa. La presenza, a suo dire macchiettistica, del carabiniere bergamasco nella fiction di Canale 5, Distretto di Polizia. Ma Tito, cosa c'è? Senti, ha ragione. Perché? Bergamo in Lombardia, Zaia non c'entra. Ma non importa, Zaia è il governatore del Lombardo-Veneto. Visto che Formigoni è impegnato a far altro, e lui fa giustizia anche per Bergamo, no? Ma è così. Che fastidio gli dà il carabiniere bergamasco nella fiction romana? Beh, senti la lettera che Zaia ha scritto a Fedele Confalonieri, il presidente di tutta la Mediaset. Caro presidente, mi rivolgo a te per l'amicizia e la stima che ho nei tuoi confronti, perché mi spiace constatare che la più grande rete televisiva commerciale d'Italia, che nasce al nord e vive di pubblicità raccolta dalle aziende che sono in gran parte del nord e possiede una casa editrice, la Mondadori, alla quale mi onoro di ascrivermi come autore, abbia sposato l'andazzo di culturame razzista nei confronti del nord e dei suoi abitanti. Mi riferisco, caro presidente, all'ultima trovata del personale dell'agente scelto Giovanni Brenta, entrato di recente a far parte della 10ª serie della fiction Distretto di Polizia, che sfodera un indubitabile accento del nord, per la precisione bergamasco, e mostra un carattere che la stessa presentazione fatta dagli autori spiega che non brilla né per sensibilità né per intelligenza. Beh, un argomento questo senz'altro importantissimo. Che dimostra l'attività infaticabile del governatore Zaia nell'importantissimo campo della propaganda localistica, perché è quello che conta. Bergamo non è in Veneto, Drago. Qui si rischia la guerra civile. Metti che Formigoni venga a sapere che di questa lettera di Zai, solleva quindi una questione di competenza. Cioè, Lombardia contro Veneto. In quel caso la piccola vedetta lombarda dovrebbe avvistare i veneti e non più gli austriaci, è un casino, bisogna anche avvertire il bambino Alberto di fare la recita. Sai come fa a distinguerli poi, i veneti da lombardi? Gli fa dire la frase piange il telefono. Eh sì, se dicono telefono sono lombardi, se dicono telafono sono veneti. Anzi, vaneti. Il 22 marzo chiedo asilo live, per prenotare scrivete una mail a chiedoasilo@radio24.it. È un po' lunga la metrica. Vabbè, come Pezzali, poi sono tante le cose da dire. Quindi un live. Un live, cercansi altre quartine per comporre la sigla definitiva di Chiedo Asilo. Che faremo dal vivo il 22 marzo, ripeti che non fa. Il 22 marzo qui nella sede di Radio 24 alle 21, per prenotare scrivete una mail a chiedoasilo@radio24.it, dite il vostro nome e cognome, quanti posti prenotate, poi dovete esserci, è tutto gratis, ma allora poi non vengono, prenotano e poi non vengono.